Trionfo su frequenza apparentemente libera, chiama Marco, rimane in ascolto, vediamo se c'è qualcuno qua. Microfono così volatile, microfono volatile, Marco Scorpio, chiamaci. Prata, sei in ascolto, cambio. Breco, qui da Santo Lussurgio, Fagiana Bagnata, chiama per copiare, cambio. Non arrivi bene, cambio. Breco, riproviamo da Santo Lussurgio, Fagiana Bagnata, cambio. Breco, non ti copio, caspitina, cambio. Qui Fagiana Bagnata, da Santo Lussurgio, mi copi Chiodo Arrugginito? Qui Fagiana Bagnata, io ti sento un po' meglio ora, cambio. Breco, mi copi ora Chiodo Arrugginito? Cambio. Qui Fagiana Bagnata, in spostamento da Buggeru, cambio. Cambio. Ciao, chi sei? Sì. Dai, sono Gianni Doppio Roma, avanti, chiodo a Ruginito, buonasera. Non sono chiodo a Ruginito, la Rugine di Aceroma non ne ho chiudi, sono Danilo. Ciao anche a te Danilo, dai, c'era anche chiodo a Ruginito, vi siete sovrappopolati tutti e due. Riprendi tu Danilo per chiodo a Ruginito, vai. Sì, ciao chiodo a Ruginito. Come sei in macchina? Massino 6, 6 Santiago 5, qua. Cappadani, ciao, mi sentite anche a te, dai. Avanti. Sì, come mi sentite confronto all'altro giorno? Oh, prova da... 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Qua sei 9.30, nada. Citofonica, ma già va bene, dai. È un po'... rimane un po' nasino, dai. C'ho la potenza al 50%. Aspetta che ci provo a sollevarla piano piano così mi dai i risultati. Ehi, ma qua arriva su 2.30, io ci mi garanzo. 9.5, 5, ho aumentato. Vabbè. Sì, adesso ho portato il Mac Game a 50, a 70. Adesso come mi senti? Meglio di primo o peggio? No, ti sento sempre bene da te. Quindi da te Santiago 5. Adesso sono all'80%. Adesso com'è che mi vedi? Vabbè 9.30 Danilo, dai, io quando ti sto arrivando adesso, guarda, 1, 2, 3, prova. Guarda me sei a 9.40, adesso che ce l'ho al 100%, a quanto sono, come sto uscendo? Cappa, no, ma Danilo ci arriva bene, dai. Solo che io più di tanto non ti posso dare, Dani, magari arrivi anche più forte, ma qua arrivi fino a 9.30, arrivi fino al più del 9.30. Anche qua arrivi 9.30 con picchi di 9.40. Cara gara, questo è il gara, diciamo che al minimo, aspetta, così qua l'ho alzato, il minimo della potenza che c'era l'apparecchio, adesso è al massimo. No, sempre lo stesso, no, non ha cambiato niente. Siamo avvicinati, non si vede, è in lontananza, già cappa. Avanti, chiodo a Ruginito, adesso ti faccio una prova con la potenza del gas, adesso metto al minimo, guarda, guarda il segnale, e così è al massimo, guarda se cambia. Già va bene così, città, va bene così, era solo una prova, cala cala, e quindi adesso c'hai l'imbarazzo della scelta, c'hai chiodo. giro questo qua. Rosso sì. Testata anche a 120 km orari, non si muove, capito? Non si muove niente. Quella che ho comprato io è quella grande, l'ho presa da Fusaro e non si muove nulla. È l'antenna, la mia è alta, è 2 metri l'antenna che ho io, capito? La Turbo 2001, quindi immaginati con l'antenna piccola proprio non si muove nemmeno se vai a 300. Avanti, da lì non si muove. A dirlo è, poi bisogna vedere il vento contrario, andando a 300 se uguale. È un modo di dire, no, non è che, comunque io a 120 l'ho testata e non si è mossa di un millimetro. Allora già va bene, da. Intanto non ce n'è tutti per correre, lasci correre e arriva anche ma... non ce l'hai posti per correre qua. Ma deve essere morto qualcuno sulla BDVD, ho visto i fiori dove c'è quella rete dopo il rifornitore, nulla ne sai da lì. E in che punto? Subito dopo il rifornitore, il primo rifornitore che c'è, no? C'è una rete, subito dopo c'è una discesa per una campagna e poi c'è una rete lì e ci sono i fiori. Probabilmente è successo qualcosa di brutto. No, non ho visto niente io. Se no che era parte del primo rifornitore, dove c'è Sassi de Garde, quello che vende i fiori, quello lì. No, io sto parlando il primo partendo dal chilometro, il primo rifornitore, quello che trovi, come si chiama, non me lo ricordo, quello che c'è all'allevamento di cavalli. Ah, su al Kuwait, su alle luci gialle, al chilometro. No, il chilometro non passi. Scendi di fronte a Via Chiarini, ce l'hai presente Via Chiarini dove? Di fronte di... La Marimurgia. Murgia, subito dopo il rifornitore ci sono, c'è una campagna che sono delle reti e praticamente mi avevano detto che avevano sentito un moto forte e poi c'era tutta la gente che guardava dentro la rete, però pensavo che fosse una cosa così, avevo qualche macchina che c'era uscita, invece c'erano i fiori l'altro giorno. No, io in quella parte lì non ci passo quasi mai, è difficile, se no che sono su al centro. Allora sì che ci passo, ma la maggior parte delle volte passo dalla rotatoria di Latte Dolce per andare al lago di Bara, alla ferrovia. Da lì in poi, se quel pezzo lì me lo faccio sempre tutti i giorni, ma quel pezzo di su è difficile che me lo faccio. Vabbè. Comunque Tino l'altro giorno ha detto che ha sentito un boato proprio forte, una bomba detto che sembrava. Oh, non ho letto niente. Vabbè. Comunque è morto qualcuno in ogni caso perché ci sono i fiori. Avanti, io da Ruggini. Adesso io chiudo che vado a farmi la doccia, che ho acceso un attimino per provare il cavo nuovo del microfono. se ci sentiamo un altro giorno. Ciao. Se mi avete chiamato non tenete, va. Sì. Sono perché sai cosa mi succede? Quando sto conversando con una persona mi si stacca la linea anche 3-4 volte in una conversazione, devono richiamarmi 50 volte, ogni volta è così, ed è un periodo che me lo sta facendo molto ma molto spesso. Ho chiamato per 4-5 volte, mi hanno fatto fare staccare il telefono, lasciarlo 40 minuti sospeso senza usare, e poi mi hanno fatto la rivalutazione di tutto il telefono, hanno controllato, fatto. Beh, adesso mi ha telefonato per dirmi che adesso manda i tecnici a controllare, non so cosa faranno, perché il mio telefono mobile non so cosa devono controllare, se no dice bisogna cambiare la scheda. Ma stiamo scherzando, così perdo tutti i numeri, tutto, ma aiuta. Io guarda, gli ho detto, io sto pagando e voglio un servizio, dice sì, ma lui non può avere il servizio all'oggi al domani, ma se sono 5 volte che ho telefonato, ma cosa sta dicendo? Ce ne sono, sai quanti, i Fiat, poi ce ne sono a 5 euro, a 7 euro, e io ne pago 15 con la Vodafone, capito? Una certa maniera, voi non tenete problematiche. che da Ruggito, se non lo senti, dai. L'ho trovato così l'altro microfono, quello amplificato. No, non l'ho trovato, non lo voglio provare. Ma poi già, quello che ho fatto con te, quello non l'ho registrato, che sta la fase di casa, io non l'ho portato, perché ho pensato che magari dalla fabbrica già vi viene una cavatura, così mi viene un attimo. Poi magari così viene una cavatura. Vabbè, come va? Sì, Gianfra, come va? 5 a 9 più 30, la radio 5, è più bella in gusto. Bruce. Ah, ok, perfetto. No, perché sto provando un microtelefono, capito, una connetta. Ok, perfetto. Grazie, rimango in ascolto. Cappa, va bene. Avanti, Blu. Ok, quando spingo il tasto, guarda, il microfono fa un rumore, fa un tutto il colpo. Comunque adesso lo trovo uso tutti, non ho poi, poi metto quello originale per vedere se, se non si preoccupa, magari uso questo tenendo il cursore al minimo, dai. Ma è abbastanza chiaro questo qua. Sembrava quello di Alessio. Giulio, avanti. Avanti che l'ha rugginito, ripeti tu. Se l'Alessio ne ha uno e si ha subito invece. Bruno! Sì, sì, è un certo, non riesci a se porca così. Io ho rubato la lucidattina, niente, perché tu sei il tuo mismo. È arrugginito. La lucidattina non la facciamo andare, a me non ci meglio. Ha detto che quando ho avuto la mia macchina ti ascoltava, adesso non ti ascolta più. Cioè, stanno al turbo, nel turbo, sulla macchina, ma questa è una follia, una pazzia, dai, questa dovrebbe essere la mia. Adesso, anche me sono portata verso, verso il lato dorso. Domani lo fermo, la decisione, ti dico adesso che si ancora, per vedere se, adesso non lo so, amico, dovrei per recuperare qualche principe. Si ha perché ha parlato in due. Perché non lo sento. Cappagatto. Ripeti tu, Bruno, e prova a alzarlo ancora appena appena a vedere se è fisico. Così lo so, ma appena appena, Prova. Allora adesso lui è, non tocca a me, non appena appena più su di lui, non va. Adesso va bene, adesso è amplificata pure. Allora questo microfono deve essere arrugginito, forse era troppo tempo fermo, c'è bisogno di un po' di rodaggio. Alza a vedere se dove puoi alzare. Adesso sono a metà adesso, prova. Ma adesso ci sono i grilli. E adesso grilli, molti sono. Morti, morti. Ma dimmi dove ti grilli, però mi rimango. Ma non è che ci ho detto il microfono. Tu cosa ne dici? Non lo senti niente a Bruno, nulla nulla. E Bruno quando era a casa sua si faceva sentire. Era a casa della madre, si sentiva. Ma non può pone un'antenna come ti si tocca, boh? Forse è venuto a prendere anche l'antenna. Di che? Adesso devo cominciare a girare lui sul palazzo, no? Scuola di fare la copertura, tutta la campagna, cioè cavolo fanno. E stavo spiegando che c'è spazio sul tetto, ma non avevano detto che l'attico prendeva tutto il tetto, invece dice che c'è molto spazio. Devo piazzare i pannelli solari, per cui al termine dei lavori da questi operai che vengono cercherò un posticino per piazzare lo staffa. Vabbè, e ci puoi mettere un'antenna come si deve allora. Adesso ce ne sono diversi circondati che vanno bene. Io ho fatto male, non ho buttato via tutta quella roba, ho buttato via quella direttiva omnidirezionale, quella lì era micidiale. Era particolare perché c'è stato un po' di dare la direzione che volevo. Poi quella si è buttata là, non aveva fatto là, ha giubilato proprio, l'ha fatto tutto. E poi si è fatto male così, quella era una bella antenna. Come facevi a farla roteare? In realtà tu pensa all'antenna, faccio un esempio, tipo il radiale tipo la Grand Prix, non è il Grand Prix, però chiaramente c'erano questi tre tubi e erano in verticale. Il risultato è che questi tubi scale, abbassa appena appena quel microfono perché sta di nuovo con i grilli. I grilli, mi adesso ho messo quasi al minimo. Avanti, chiudo la ruggine. Stavo dicendo che forse ha risolto il problema dell'antenna, che adesso devono andare degli operai a fare dei lavori lì nel palazzo e richiede di mettere le staffe sul tetto, capito? Stanno facendo quel prototipo nuovo di antenna, tipo la Mantova 5 tutta rinforzata, con materiale grosso, spesso, molto più bella della Mantova 5, molto più rinforzata, più grossa, più pesante sì, però molto più rinforzata, non so se l'hai vista. Adesso non mi ricordo come si chiama, però praticamente erano in due, si sono separati e questo qui è il fratello di un altro dell'asilo, mi pare che era. Rinforzata, grossa, materiale che ha detto fra 30 anni dirai cavolo c'è ancora la mia antenna sul tetto. Avevo 12 anni, una volta solo l'ho scesa per pulirla, ma perché l'ho voluto fare io, non c'aveva nulla. L'ho tutta ripulita con la lana d'acciaio, il cerricino, ho fatto irradiare luci di luci di luci. non mi si è troncata, mi si è infilata appena appena tra il primo e il secondo elemento, perché non era stato infilato bene, perché c'ha delle misure obbligatorie da rispettare e questo non era stato fatto per negligenza. Adesso che l'abbiamo entrata più in dentro, come doveva essere messa, misurata e tutto quanto, abbiamo messo tre fascette, una attaccata all'altra e non si muove più. Sempre che sia più resistente l'alluminio di quello, è vetroresina, quindi si può vetrificare col tempo, eccetera. Niente, adesso si quanto dura e poi mi prenderò una mantova di nuovo, oppure quel prototipo che stanno facendo della mantova che è molto forte. Avevo un ingegnere per piazzarla che si antenna, ma c'è la roba che c'ha. Ui ui ui, i radiali sono messi diversamente, sono messi a croce, tenuti da una staffa U, tutta diversa, dai, molto più forte. A quanto sembra è un'antenna duratura quella lì. Avanti, brutto. Ma guarda, io ho avuto una volta una super regibus, allora erano corti con le antenne a quei tempi, allora c'era radiale corti alla base, bello, andavano bene, ma dovevano cantare con le antenne, andavano bene, il vento non li faceva niente, se c'era corti in quel periodo mandava anche la ringo era un attore semicerchio in un certo distretto, non so. Quella antenna lì aveva perché non era radiale, non era niente, ha tutto il ritaglio, una piatta, e due ore fa. Cambia la cosa, mi ha mandato, mi ha sentito la fine, perché non stavo la sua volta, ho attaccato la corrente, sono stata lì. Andate Bruno, noi siamo qua, avanti, che l'ho registrato, Bruno si sta sentendo male. che hanno fatto costa intorno alle 135 euro, questa nuova che hanno fatto, ed è massiccia, proprio bella fatta, e hanno fatto vedere lo spessore dei ferri, delle pezze di ferro, anche l'isolatore molto grosso, quello di plastica che dici tu, l'isolatore, quello lì è tre volte più grosso dell'altra, della manto. La Gearmaster è una buona antenna, però il materiale un po' lascia desiderare, secondo me. Vabbè, l'antenna vera e propria è quello che c'è all'interno, è il cavo che mettono all'interno, poi il resto serve solo per tenerlo in tira e proteggerlo il cavo, capito? L'antenna si chiama Grazioli, scrivitelo così vai a vedertela. Grazioli cinque, è una 5 ottavi. Antenna 5 ottavi Grazioli. Separati, l'altro fratello è quello che fa l'antenna nuova. Grazie all'amico che me l'ha suggerito, dai, grazie per il messaggio. Ci vuole, bisogna essere ingegnere a piazzarla, guarda tutti quella bulloneria che c'ha, tutta la roba, bisogna stare molto attenti a piazzarla, se no ti avanzano un pizzi. Guardala, c'è il pacco che è arrivato per fargliela provare a questo tecnico, gliel'hanno mandata gratuitamente per fargliela provare. Ciao Claudio, ben sentito, c'è detto Gianni e Marco di sfuggita e poi c'era qualcuno che ha messo una portantina, non ho capito chi era. Avanti a te Claudio. Ciao Robert, comunque quelli lì non sono di Poli, occhio d'arrugginito, sono i tiranti dell'antenna, guarda c'è di Zetti, sono i tiranti per tenere il palo quelli. Aspetta che c'è anche Marco, avanti Marco. Sì, sono entrato solo per un saluto in quanto sto mangiando, dai, un saluto a tutti. E, mandali il PDF, istruzioni montaggio già, così ci fa un'idea migliore. Sì, molto molto pesante, molto alta, i radiali sono da un quarto d'onda effettivo, 2,70 m ogni radiale. Vai, chiodo, Quadrix per me. Però non mi piace come sta uscendo, sei tutto saturo mio, lo stai spingendo troppo. Cioè, tutta la voce è tagliata, satura. Tu voce. Sì, un po' meglio di prima, ma cos'è? Che apparato è questo? No, adesso è migliorato tantissimo, ma poco fa era sporca la modulazione. Prova a vedere una radio un po' più amplificata, ma ti ascolto bene, radio 5, 9 più 20 il segnale, poco fa eri leggermente saturo. Avanti a te Gianni. Sì, dai, io vi saluto, vi sto portando il cane, dai. La mia radio com'è, Robè? Come la senti? No, già è chiara, però non è bella come quella l'altra che mi hai fatto sentire ieri. Quella è molto più bella, questa è un po' più nasina. Chiara 5, niente da dire, però non è la tua voce naturale. L'altra, quello cosa c'avevi, quello di ieri, cos'era? Un magnum, cos'era? Quella era bellissima, forte e chiara. Il magnum è col coso, col Sadelka Master 2. Quella è una bomba, quella è perfetta già. Vabbè, dai, vi saluto, buon continuo QSO. Mi dispiace, ma devo andare perché il cane si sta lamentando, probabilmente vuole scendere giù, dai. Ci sentiamo ragazzi, a più tardi se coincide, dai, se no a domani. Ehi, buona passeggiata, dai. Vai Claudio, ehi, vediamo se nel frattempo c'è qualcuno qua sul 10 che vuole entrare, attenzione canale 10, avanti con la buona sera che vuole entrare. Ora, c'è qualcuno? Vabbè, ieri sei un po' appena soft di modulazione, se potevi alzare appena. Vabbè, ti presento, ero lontano, adesso come mi ascolti? Sì, Sì, vabbè, diciamo che era più amplificato, gli altri erano più amplificati, perciò io sembrava più basso il solito discorso, dai. Ma io qua non ho toccato niente, guarda un pochettino, potrei anche un po' alzare, molte volte mi dicono che sono troppo, guarda un po', ho sollevato un peluzzino poco a poco. Meglio, meglio. E gli altri erano più alti di me, addirittura. Ehi, diciamo, gli altri spingono pure troppo, vabbè, comunque dai, siamo lì. Dai, sto mangiando, vabbè, devo far bianco per forza. Ai, oggi cosa c'è, qualcosa staccato, guarda adesso come mi ascolti. Dio Maria, mi sono spaventato, alzate il volume. No, c'avevo qualcosa spento, il processore, aspetta, ma me ne sono accorto, stavo uscendo normale. Vabbè, pure troppo. Ah, così è, c'ho uno di microfono e ho detto che strano, forse ho toccato senza accorgo, non è che non ci abbiamo messo mai qualcuno di casa, Duke Andy, perché c'era il processore staccato, disinserito, però non mi ha detto niente nessuno. No, ma infatti mi sembrava tipo omologato, vabbè, ho detto vabbè, vuol dire avrà cambiato radio, oppure era un po' diversa dal solito, ho abbassato il volume io, dai. Infatti mi maglia la YouTube, io sto modulando, forse ero un po' più lontano, io modulo sempre a 50 cm dal microfono, non mi ha mai detto niente nessuno, magari adesso è anche troppo alta, ti ascolto benissimo, ma tu non mi hai detto niente, Claudio, che sta facendo diverso di modulazione, adesso mi ascolti più forte, e adesso è un'altra musica molto più forte.